troppo bello l'estate, quanto vai alle spiagge per vedere le ragazze che si abbronzano al sole con un bikini che ti accende un fuoco dentro. Andiamola, andiamola, già come ti chiami? Andiamo là. Giuseppe, lui Gianluca, lei con un sorriso Gianluca si butta nell'acqua. E allora Giuseppe mi dice: guarda là, dove là, che bomba è, fammi vedere. E se ne va e caccia fa. Andiamo là. Quando vediamo una bella fanciulla così, con le gambe abbronzate e un seno così fuori, riflettiamo e magari andiamo, dopo finire ci buttiamo. Andiamo là, andiamo là. Scusi che ora è? Andiamo là. Possiamo bere un tè? Lei con un occhiolino ride, sparisce. E allora Giuseppe mi dice: guarda là, dove là, che bomba è, fammi vedere. E se ne va, e se ne va, e caggia fa, e caggia fa. Andiamola, guardala, guardala, guardala, guardala, andiamola. Quando vediamo un viso così bello, per non cascare ci sediamo e lei ha degli occhi più belli che il cielo e una bocca da sposare. Andiamo là, andiamo là. Madame, per piacere, andiamo là. Stasera venite a ballare. Lei si pettina a ballare e se ne va. E allora Giuseppe mi dice: e guarda là, lei se ne va. Che bomba è, se non ci sta l'inseguiamo. Ma per far cosa? Allora andiamo alla maison. Andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo alla maison.